Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quando hai deciso di dire basta e ti sei sentito più libero. Buongiorno cari amici, oggi saranno le vostre storie a diventare protagoniste della nostra puntata. L'invito l'abbiamo lanciato ieri su Facebook e molti di voi, vi ringrazio, ci hanno risposto così. Io ho detto basta dopo anni di resistenza razionale in un rapporto esausto e triste. Ho ripreso in mano la mia vita e l'ho riportata indietro nel tempo, per ricominciare da quel punto a vedere con i miei occhi altri colori della vita. Ho riacquistato la stima di me stesso, la serenità di giudizio. Però per avere questa nuova condizione ho dovuto lasciare quello che avevo costruito in anni di sacrifici e lavoro, e altre persone hanno sofferto della mia mancanza. Quindi, per una rinascita, c'è sempre da pagare un prezzo. Ho deciso di smettere di fumare qualche anno fa. Il mio rapporto con il fumo era diventato strano, problematico, asfissiante. Fumavo un pacchetto al giorno e quando ero nervoso anche di più. Non so dire esattamente come e quando ho iniziato. Ero piuttosto giovane e le sigarette erano un rito che mi univano agli altri. Inoltre il fumo mi affascinava da sempre. Ma poi un giorno ho detto basta. Era diventata più che una mania, era una sofferenza. Oggi però sono libero, finalmente felice di non avere più quel maledetto pensiero fisso che mi tormenta. Io ho smesso di cercare di piacere a tutti da piccolo. Mi sforzavo di accontentare tutti e di essere amico di tutti. Quando mi sono convinto che sarebbe stato impossibile non riuscire antipatico a qualcuno e altrettanto impossibile assecondare o accontentare tutti, soprattutto i miei coetanei, mi sono sentito davvero libero. Forse ero semplicemente cresciuto. 800 24 0024 se volete intervenire, il nostro profilo Facebook è a vostra disposizione, così pure il numero per inviare messaggi 349 238 6666. Quella volta che mi sono deciso a dire basta, mi sono sentito più libero. Ci sono delle dipendenze fisiche e delle dipendenze mentali, e ci sono dipendenze che sono al tempo stesso fisiche e mentali. Una cosa è certa, ciascuno di noi è dipendente da qualcuno e da qualche cosa, e non c'è nulla di strano, anzi per certi versi è assolutamente sano, vitale, protettivo dipendere. Buongiorno al professor Perna, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, hai proprio ragione, in un certo senso noi siamo dipendenti da aria, acqua, quindi da tante cose. Anche questa è una forma di dipendenza, anche se per dipendenza noi intendiamo una cosa più complessa. Ovviamente ciò che ci rende legati alla vita, ciò da cui noi dipende dal punto di vista del nostro equilibrio, diventa qualcosa di che ci crea una dipendenza. È importante sapere quindi che la parola dipendenza non è una cattiva parola, non bisogna difendersi subito, lo siamo tutti, da qualcuno, da qualcosa. Ci sono dipendenze fisiche, come tu dicevi, dipendenze mentali, e alcuni che sono l'una e l'altra cosa insieme. È molto importante fare alcuni esempi. Per esempio, molti di noi sono dipendenti dal rito del caffè. Sembrerebbe una dipendenza fisica, ma è anche una dipendenza mentale, in quanto innesca una serie di meccanismi chimici nel cervello che creano questa sorta di necessità. È facile capirlo intuitivamente, dato che il corpo e mente si condizionano a vicenda. Sono come due compagni di banco molto affiatati. È vero. Quindi, professor Perna, il segreto possiamo dire sta nella misura. Sì, certamente. Il problema è che anche quando questa misura si passa, spesso si tende a non accorgersene, si perde la consapevolezza e si diventa automatici. Allora provate a pensare ad una cosa che fate abitualmente nel corso della giornata, un alimento che assumete, il caffè per esempio, un'abitudine, la corsa della mattina, un gesto come controllare la posta sul cellulare. Provate a pensare quanto vi costerebbe per un giorno farne completamente meno. Pensateci. E provate a pensare se l'avete fatto, se vi è costato fatica o se invece l'avete fatto naturalmente. Credo che questo sia un esercizio per allenarci a prendere solo il buono della dipendenza, usarlo al nostro vantaggio. Noi abbiamo invitato i nostri ascoltatori a raccontarci quando hanno deciso di dire basta. E professore, abbiamo visto, anche sentendo leggere dal nostro speaker alcuni contributi dei nostri ascoltatori, che si può dire addio ad un amore, ad una sigaretta, un alimento. Si può dire anche basta alla pigrizia. Ci sono dei basta, tra virgolette, che rendono molto più liberi. È vero, questo è importante, bisogna dire basta, per dire basta bisogna diventare consapevoli delle nostre abitudini, questo è fondamentale, perché noi andiamo avanti spesso con un pilota automatico e questo pilota automatico tende a incastrarci e a renderci dipendenti. Quindi provare a ripensare anche ai casi e ai momenti in cui voi vi siete accorti, come abbiamo sentito nelle lettere degli ascoltatori, quando ci siamo accorti che qualcosa non andava bene, allora poi abbiamo agito e quindi abbiamo cambiato la nostra vita. È vero, come diceva l'ascoltatore, che tutto ha un prezzo, e il prezzo è lo sforzo di togliere il pilota automatico dell'abitudine, della dipendenza, e rimettersi in gioco. Abbiamo detto, professor Perna, che ci sono delle dipendenze fisiche e mentali, e mentali e fisiche insieme, perché una dipendenza contamina l'altra, ma ci sono delle dipendenze vitali, lei ha detto giustamente l'aria, l'acqua, ci sono delle dipendenze salutari e ci sono delle dipendenze che invece non possono che nuocerci. Assolutamente sì, le dipendenze, il fumo ad esempio, è una dipendenza che porta molto poco, perché intanto è fisica e mentale insieme. Rimanere invischiati è facile, quindi è meglio anche non giocarci. Stiamo attenti che ogni volta che noi pensiamo di avere il controllo su qualcosa che ci può rendere dipendente, ci illudiamo. Quindi iniziare è facile, poi smettere può essere anche molto difficile. Alcuni non smettono mai. Professor Perna, grazie per essere stato con noi. Vi saluto tutti e vi auguro una buona giornata. Grazie. 800 24 00 24. Tu fumi? Solo qualcuna. Quando avevo sentito la bugia uscirmi dalla bocca, avevo capito quanto mi piacesse. Se ti dà fastidio, io... Senti, io non posso uscire con una fumatrice. Peccato che per Aiden sia un problema, ma bisogna accettare le persone come sono. Che abbia voluto scaricarmi per una sciocchezza come il fumo. Guarda che fumare non è una sciocchezza, è un vizio sporco e disgustoso e ti sta ammazzando. Grazie, mento livido. Davvero, Carrie, dà fastidio a tutte, lo sopportiamo perché ti vogliamo bene. Adesso hai un motivo per smettere fumo. Non mi piace che vi mettiate contro di me. Chi si mette contro di te? Fumare fa parte di come sono. Se smetterò, sarà perché l'avrò deciso io e non perché un tipo carino mi ha detto di farlo. Intanto a voi che mi ascoltate rinnovo l'invito. A che cosa avete detto basta? Come avete fatto? Ci avete guadagnato? State cercando di smettere? Avete smesso? Ci siete ricascati? Chiamatemi 800 24 00 24. L'esperienza aiuta, la condivisione rafforza. Qua in studio con me il dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno dottor Boffi. Buongiorno Nicoletta. Iniziare è molto semplice, smettere è difficile. Non solamente noi parliamo con lei di fumo, ma usiamo, no, l'abitudine al fumo, così questa sorta di dipendenza che a tutti gli effetti è una dipendenza, non un vizio come vogliono farci, no? Come, certo, credere, certo. Come paradigma, no? Perché sì. Se vogliamo smettere, allontanarci dalla sigaretta, decidere di toglierla dalla nostra vita è un cambiamento, è una liberazione molto salutare, perché ci fa guadagnare. Ma noi sappiamo che iniziare per certi versi è semplice, anche se le prime sigarette non sono assolutamente buone, ma poi ci si prende gusto. Smettere è difficile. Ci sono persone che continuano a provare a smettere, certo, e ci ricascano. Sì, la caratteristica che mi viene da dire peculiare della dipendenza da nicotina è sia qualitativa che quantitativa rispetto alle altre tipi di dipendenze. Qualitativa perché? Perché è una dipendenza dannosa per la nostra salute, direi una delle più dannose. Quindi altre dipendenze di cui parlava il collega chiaramente non lo sono, lo sono, certo, molto meno, tipo il caffè. E anche quantitativa in termini di capacità che ha di farti poi far fatica a sospenderla, e quindi direi la chiamerei più schiavitù che dipendenza. Quindi parlava molto bene lei prima di libertà, di liberazione, in antitesi al legame che hai con la nicotina e con gli additivi che vengono messi nelle sigarette. Quindi è dimostrato da studi inglesi e americani che più tentativi si fanno di smettere di fumare, più si ha percentualmente possibilità di successo. Quindi provare a smettere, diciamo che è una sorta di allenamento. Assolutamente. Prima o poi... E c'è uno studio che dimostra che il tentativo che ha percentualmente più probabilità di successo è il quarto. Quindi ogni volta, se il quarto tentativo ha 100% di probabilità, ogni volta aumenta di un 25% fino ad arrivare al top. Questo perché possiamo mettere a frutto le esperienze dei tentativi precedenti. Dottor Boffi, lei lo sa meglio di me. Si fuma per piacere, per abitudine, per scaricare lo stress, si fuma per trovare ispirazione, per concentrarci. Le ragioni per accendere una sigaretta sono tante, ma noi oggi troveremo altrettanti motivi per smettere. Useremo proprio questo paradigma, perché sì, lo applicheremo magari ad altre forme di liberazione, no? Ce li faremo naturalmente suggerire dai nostri ascoltatori che hanno smesso, che stanno tentando di farlo o che non hanno, ad esempio, fumato mai. Ci sono fior fiori di studi però, dottor Boffi, che hanno misurato gli effetti che smettere di fumare ha sulla nostra salute. E quello che mi piacerebbe oggi fare con i nostri ascoltatori è sottolineare gli effetti positivi. I benefici, ad esempio, sono quasi immediati e continuano nel tempo. Ad esempio, lo dico ai miei amici da casa, a chi ha fumato l'ultima sigaretta 2 ore fa, possiamo dire che durante questo periodo di astinenza ha già fatto una buona cosa, perché la nicotina inizia ad essere espulsa dal corpo tramite l'urina. Assolutamente, sì sì. E poi viene eliminato rapidamente il monossido di carbonio, che è un veleno incolore, inodore, insapore, che però toglie energia, resistenza agli sforzi, il fiato, insomma. E questo quindi avviene dopo? Ma già dopo mezz'ora, ad esempio, il battito cardiaco si rallenta. Quindi, ad esempio, per un ragazzo che fa sport o per la nostra energia, per i riflessi che dobbiamo avere, non so, quando freniamo, certo, a un semaforo, già abbiamo un beneficio dopo poche ore. E dopo 12 ore, ad esempio? Beh, dopo 12 ore, ad esempio, scendono i livelli anche di nicotina gradatamente, e quindi comunque si allargano un po' i vasi, perché la nicotina ha un effetto vasocostrittore. Bene, mi piace sottolineare i vari effetti scanditi dal tempo, perché ci sentiamo già quasi un po' guariti. Ad esempio, dopo il tempo, abbiamo detto i minuti, le ore, settimane, dopo 3 giorni si allargano i bronchi, quindi i tubi che fanno passare l'aria. Ecco, allora, intanto, se vi sentite chiamati, se avete smesso, se non avete fumato da 2 ore, da 12 ore è più facile, perché magari qualcuno ha saltato la sigaretta del mattino, andiamo avanti qualche mese, chiamateci, magari il dottor Boffi vi dice che cosa avete guadagnato, perché noi vogliamo sottolineare tutti gli aspetti positivi. E tra l'altro, dottor Boffi, chi resiste per 6-7 anni ha una sorta di condono. Posso definirlo così? Sì, assolutamente, soprattutto smettendo prima dei 35-40 anni, però comunque non è mai troppo tardi per smettere di fumare. Anche il rischio oncologico, che è quello che viene eliminato per ultimo, diciamo, dopo 10-15 anni, ormai è praticamente paragonabile a quello di chi non ha mai fumato. Sento rapidamente Giuseppe da Milano e Stefano dalla provincia di Lucca. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. A che cosa ha detto basta? Innanzitutto alle sigarette. Era il 17 aprile del 2001. Sì. Dissi adesso basta. E non ho più toccato una sigaretta. Sono 10 anni a oltre e devo dire grazie a quella decisione. Perché mi sento 10 anni più giovane. 10 anni più giovane, e in questi 10 anni il dottor Boffi dice lo è. Perché? Lo è perché statisticamente il non fumatore ha un'aspettativa di vita superiore di 10 anni. Giuseppe, voglio chiederle una cosa, ma intanto voglio salutare la dottoressa Elena Munnarini, psicologa dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che è in linea con noi, perché ho poi bisogno del suo parere. Intanto, dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo chiedere a Giuseppe, il fatto di essere riuscito a dire addio alle sigarette, quindi a eliminare questa dipendenza, l'ha reso poi più forte nell'affrontare alcune scelte, alcune decisioni? Insomma, questo passo l'ha reso più capace di scegliere per il suo benessere e per fare delle scelte anche più importanti nella sua vita? Più importanti della salute non c'è nulla, ma... Allora, un attimo. Indubbiamente, perché nel momento in cui riesce a smettere di fumare, sì, acquisti un'autostima che altrimenti... Cioè, anche io avevo provato a dire a me stesso voglio smettere di fumare senza riuscirci. Poi quel giorno dissi se sto un'ora senza fumare non fumerò più. Allora, come quando uno sta costruendo qualcosa, dici sono capace. E ecco, c'è quell'autostima che ti permette di affrontare la vita con un occhio diverso. Grazie Giuseppe. Dottoressa Munnarini, stia lì perché ho Stefano dalla provincia di Lucca. Stefano, buongiorno Stefano, lei ha detto basta? Alle sigarette da 3 anni, dal 2009. dal 2009, una cosa molto importante sottolineare, che spesso non ci ricordiamo il momento in cui accendiamo la prima sigaretta, ma tutti ci ricordiamo il momento in cui l'abbiamo spenta. Io me lo ricordo il primo momento che ho acceso la sigaretta. Quando è stato? Avevo 15 anni, 14 anni e mezzo, 15, con mia sorella e poi dopo con gli amici, e mi ricordo che quella sera, ora la data precisa non me lo ricordo, però mi ricordo quella sera ne fumai 6, mi sdraiai per terra, arrivai a casa, ero, boh, mi sembravo fatto. Davvero, ed era possibile, dottor Boffi, perché 6 sigarette come rito di iniziazione, veramente Stefano ha rischiato. Beh sì, è un momento molto critico, delicato, sono quei momenti chiave, diciamo, che a volte da soli non si riesce ad affrontare, allora in quel caso forse è meglio farsi aiutare da un medico. Stefano, lei comunque ha smesso da solo, ha smesso da 3 anni? Io ho smesso, sì, da 3 anni, però la prima volta nel 95, ho ricominciato nel 98, nel 95 smisi da solo, sì. Nel 2009, tornato dalla Sardegna, promisi al bambino che avrei smesso, sì. E mi sono dovuto fare aiutare da dottori e psicologa, sì. E poi con l'aiuto dei filtrini e la nicotina ne comprai una scatola come mi suggerì il dottore. Ne dovevo fumare 3 il giorno, ne fumavo 2 e poi mi è avanzato un filtrino, da lì non ho più fumato. Però niente toglie che in questi 3 anni mi è capitato di riaccendere delle sigarette e di rifumarne una nel momento un pochino più nervoso l'anno scorso. Però mi rendo conto che il sapore è abbastanza buono e quindi non ho intenzione assolutamente di rifumare, anche per il bene della salute, perché mi rendo conto che sto molto meglio senza fumare. Dottor Boffi, Stefano ha smesso da 3 anni, però chi fuma sa bene che dentro di sé c'è sempre un piccolo fumatore in agguato. Quando è che proprio possiamo dire di avere chiuso? Ci sono dei dati che ci confortano? Sì, assolutamente. Prima dei mercati, poi andiamo alla dottoressa Murarini. La definizione di ex fumatore è una persona che ha smesso di fumare da almeno un anno. Sì. Questo non significa che noi, però, se abbiamo smesso di fumare da un anno, non sappiamo più fumare. Quindi non deve essere, è un monito che noi abbiamo. Noi sappiamo fare quella cosa, abbiamo deciso coscientemente di non usarla più. Poi ogni fumatore è diverso da un altro. Noi all'Istituto dei Tumori stiamo studiando, ad esempio, l'aspetto genetico, farmacogenetico. Ci sono delle persone con una maggior predisposizione a fumare e a far più fatica a smettere di fumare. Però il libero arbitrio rimane fondamentale. Una cosa è certa, viene fuori anche dai messaggi che mi state mandando, ma voglio sentirla da voi all'800 24 00 24, e ne parleremo con la dottoressa Munarini. Smettere, decidere di liberarsi da qualche cosa costa molto fatica, lo sappiamo, perché interrompere un'abitudine ci fa sentire fragili, ma alla fine ne usciamo più forti. Noi adesso stiamo seguendo il fumo, ma possiamo applicare più o meno le stesse regole per una serie di altre schiavitù, chiamiamole così. Essere e benessere. Siamo tornati insieme. Cambiare costa molto fatica, perché dare un taglio è sempre faticoso, mette in moto tutta una serie, no? Di difficoltà, ci fa sentire fragili, sguarniti. Beh, però alla fine chi tiene duro poi alla fine vince, si sente più forte. Io però vorrei avere una conferma dalla dottoressa Elena Munarini, che è in linea, l'abbiamo salutata prima dei mercati. Dottoressa Munarini, i benefici superano i costi, no? Anche stiamo parlando di smettere di fumare per usarlo un po' come paradigma per vari cambiamenti. Il fatto di pensare ai benefici potrebbe essere una buona idea, perché può sostenerci, no? Nel cambiamento, quando uno vede alla fine del tunnel una luce, dice, lì ci arrivo. Sì, diciamo che cambiare è una spinta naturale dell'essere umano, ed è una necessità oltre che un desiderio, e appunto paradossalmente si può dire che è quasi una delle poche certezze della nostra vita. Infatti noi cambiamo sia che lo desideriamo, che anche quando non lo desideriamo. Per cui appunto l'accettare le sfide, essere curiosi per il nuovo, ci porta poi a crescere, a sentirci senz'altro più forti. È normale quindi che di noi stessi non ci piaccia proprio tutto, no? Per cui c'è chi vorrebbe, oltre allo smettere di fumare, anche cambiare altre cose, no? Aspetti del carattere, piuttosto che provare a fare un diverso lavoro che renda più soddisfatti, piuttosto che uscire da una relazione sentimentale che fa soffrire più che portare a essere felici. Quindi il desiderio c'è, spesso però sembra difficile riuscirci, nel senso che tanti cambiamenti sono, come dire, appaiono a volte delle montagne, una strada un po' lunga e tortuosa. Sicuramente però bisogna avere fiducia nel fatto che cambiare significa in realtà migliorare e finire ad essere più felici, per certo. Cui sicuramente ne vale la pena. Possiamo dire che il cambiamento è come una specie di viaggio, perché il viaggio, no, come ci affascina, ci mette alla prova, ci rende diversi, ma dottoressa Monarini, dobbiamo anche dire che non è sempre tempo di partire. Sì, beh, ci sono situazioni in cui la vita ci pone dove siamo costretti a partire, lì forse vale la pena seguire l'istinto. In altri momenti però è vero che ci troviamo a potere anche decidere, a poter pensare, e non è facile in effetti prendere la rincorsa e fare questo salto. I rischi sono appunto da una parte quello di agire impulsivamente, quindi poi magari pentirsi, ad esempio appunto chiudere una relazione, mettiamo, sentimentale in un momento particolare, quindi non considerando bene tutti gli aspetti. L'altra possibilità però, come appunto ad esempio può avvenire spesso per le sigarette, è quella di rimandare di giorno in giorno la decisione e ad un certo punto accorgersi che la vita è passata, che no, quasi si, come dire, si fa fatica poi a poter riguadagnare. A mio avviso ci sono alcune considerazioni di fondo che si possono fare, cioè sì. In un momento critico della vita in cui ci sono già una serie di situazioni problematiche, forse è bene concentrare le energie in una sola, diciamo, in un solo obiettivo, una sola missione, nel senso che cambiare è appunto una sfida e richiede energie. Se si vuole raggiungere l'obiettivo sarebbe bene averle il più possibile a disposizione. L'altra cosa a cui fare attenzione è distinguere quando appunto il cambiamento è un miglioramento reale, realistico, che ci porterebbe appunto a essere più felici, e un altro quando invece si cerca l'impossibile, no? Certo. Un pochino l'ideale, la perfezione, qualcosa che non è in realtà realizzabile, e questo può portare invece a una delusione poi, no? E quindi un po' a bloccarsi di nuovo. Dottoressa Monarini, mi arrivano molti messaggi, e lo chiedo anche al dottor Boffi, a proposito di difficoltà di molti ascoltatori: ho smesso di fumare, ma la crisi, il momento, il disagio che sto avvertendo economico, no, mi porta di nuovo a fumare, e tra l'altro la crisi porta a fumare anche sigarette fai da te, no, quelle con il tabacco. Sì. Dottoressa Monarini, come psicologa, è facile cadere quando siamo in un momento particolarmente difficile, ricorrere a quella dipendenza che ci faceva sentire in qualche modo più forti? Sì. Sì, è vero, è una cosa che può succedere, anche qui ci sono diverse possibilità. Se si è ricaduti, come ha detto anche prima il dottor Boffi, bisogna sapere che dentro di sé si ha ormai la ricetta per farcela, per cui l'importante è non perdere mai di vista che la possibilità c'è, la si è già realizzata, la si possiede. In ecco, modo... diciamoci, ho saltato già quell'ostacolo, adesso magari sono un po', no? C'è un po' meno slancio, ma riuscirò di nuovo, quindi non colpevolizziamoli, in questo momento non abbiamo bisogno di stratificare l'ansia. No, infatti, anche perché quell'esigenza di stare meglio ritorna. Ritorna. Cioè, è qualcosa che poi ritorna. L'altra possibilità chiaramente sarebbe quella di potersi fermare prima, quindi appellarsi a una serie di cose che appunto in realtà sappiamo, ad esempio che non ci cambierà fondamentalmente la situazione, anzi forse il senso di frustrazione e fallimento potrebbe anche, come dire, questa è una buona idea. Questa è una buona idea. Dottoressa Monarini, la saluto e la ringrazio. Buonissima Saluti. Giornata. Arrivederci. Dottor Boffi. Sì, volevo aggiungere a quello che ha detto la dottoressa Monarini, giustissimo, che comunque ci sono dei momenti della vita in cui dobbiamo avere l'intelligenza, l'umiltà, aggiungerei la furbizia di chiedere aiuto agli altri, se vediamo che da soli non ce la facciamo. So che metterete, per quanto riguarda il fumo, nel sito di Essere Benessere oggi pomeriggio l'elenco proprio aggiornato dei centri antifumo sì. italiani, Ebbene, per cui sì. quando non ce la facciamo da soli dobbiamo avere il coraggio di chiedere aiuto a intanto a chi tra può le aiutare. Righe il dottor Boffi, che non cambia mai, ci ha dato un'anticipazione. Oggi pomeriggio sulla pagina di Essere Benessere troverete tutti l'elenco completo di tutti i centri antifumo, perché cambiare si può. magari iniziando proprio dal fumo. Quando diciamo cose tipo "le persone non cambiano", facciamo impazzire gli scienziati. Perché il cambiamento è letteralmente l'unica costante di tutta la scienza. L'energia, la materia, cambiano continuamente. Si trasformano. Come viviamo il cambiamento? Questo dipende da noi. Possiamo sentirlo come una morte, o possiamo sentirlo come una seconda occasione di vita. Se apriamo le dita, se allentiamo la presa e lasciamo che ci trasporti, possiamo sentirlo come adrenalina pura. Dario da Livorno, buongiorno. Buongiorno a voi. La mia domanda è molto semplice. Io nel mio cambiamento ho smesso, diciamo, 3 volte di fumare. E ora sono in uno stadio nel quale riesco a gestire, se così si può dire, 3-4 sigarette al giorno. Ora la mia domanda è questa: non ho la presunzione di dire, dopo specialmente avervi ascoltato, che ho il fattore fumo sotto controllo, però mi è stato detto anche da, diciamo, persone vicine alla sanità, medici, sì, che, diciamo, una quantità così bassa è quasi tollerabile. È quasi buona, dice lei. No, quasi buona no, però quasi tollerabile, smaltibile sarebbe la parola giusta. Smaltibile, Dario. Volevo sapere se era vero. Se sì, era lo chiediamo al dottor Boffi, però io a Dario direi che ce l'ha quasi fatta, perché il dottor Boffi, se non mi sbaglio, ha detto che è la quarta volta quella che funziona, quindi lui quella è la terza. Quella che ha percentualmente più probabilità di successo. Comunque Dario ci rappresenta un po' tutto. Non dico altro, è scontato che la prossima volta sarà quella giusta. Sì, per però Dario dice una cosa che ci rappresenta un po', no? Tutti, cioè, sono tre, magari due, magari una settimana. Non lo posso assolvere. Non lo posso assolvere. No, bisogna che Dario, il dottor Boffi dice che anche 3 non vanno bene. Ma per 2 motivi. Primo, perché quello che fa male del fumo di tabacco è l'uso, non solo l'abuso. Quindi non c'è un effetto soglia tollerabile. Nessuno ha mai dimostrato questo. È ovvio che 3 sigarette fanno molto male di 30, ma questa è la grossa differenza, ad esempio, con bere un bicchiere di vino. Sì. Cioè, una sigaretta fa male sia aspirata attivamente che assunta passivamente, stando di fianco a un fumatore. Certo. Insomma, Dario. Però l'altro rischio, scusi Nicoletta, è il rischio di tornare a fumare di più. Ecco, questo è rimanere legati a una dipendenza, quelle 3-4 sigarette al giorno. Quindi deve stare molto attento. Ecco, comunque bravo, naturalmente. 2 cose a Dario. Ormai è quasi vicino alla quarta volta, per cui secondo me Dario alla quarta ce la fa. E poi il dottor Boffi dice: beh, 3 sono talmente poche che possono diventare 0. Quindi tutto in positivo. Essere e benessere. Buongiorno Paolo, dalla provincia di Rimini, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Siamo qua, ci racconti. Allora, io ho smesso di fumare per una promessa d'amore. Cioè, io mi sono sposato nell'82 e nell'83 mia moglie, cioè prima che rimanesse incinta, gli avevo promesso: guarda, il giorno che fosse rimasta incinta io avrei smesso di fumare. È una promessa. Bene. Nell'83 è rimasta incinta, la provetta nel giorno che ha detto sì. Sì. Io lei ha detto giù no. Il pacco delle sigarette sotto i piedi e l'ho buttato via. Poi io ho smesso veramente di fumare, perché non volevo che i miei figli, prima di tutto, vedessero un genitore fumare e in casa in qualunque modo entrasse del fumo a contatto con loro. Perché certo. Sapevo che faceva male. Certo. Io fumavo. Quindi insomma. Ha detto no per amore, eh? Sì, e poi la bellezza che posso dire è che dopo 28 anni che ho smesso di fumare, i miei due figli non fumano nessuno dei due. Uno 26 anni, la e quindi la bambina per la quale lei ha smesso di fumare naturalmente non fuma. Bene. No, mia moglie non fuma. Neanche. Paolo, io la ringrazio per essere intervenuto. Voglio salutare, in linea con noi abbiamo Filippo Nigro, attore, questo lo sappiamo, ma ex fumatore. Filippo, ciao. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Senti, il dottor Boffi non ha mai fumato. Tu invece sai che cosa significa il piacere di accendere una sigaretta e credo che tu possa rispondere, controbattere queste affermazioni che noi spesso tiriamo in ballo quando un amico, il nostro medico, la fidanzata, il fidanzato ci dice dai smetti che puzzi, ti fa male. La prima è: mi piace fumare perché dovrei privarmi in fondo di uno dei pochi piaceri della vita. Filippo. Ma mi fate passare per un salutista, quindi devo controbattere addirittura. No, un mezzo salutista, insomma. Però guarda, allora ti dico, è un piacere sicuramente, cioè non è che smettendo, cioè uno smette e rinuncia sicuramente a un piacere, io non nego che era un piacere. Certo. Lo era sicuramente, io rinuncio a quel piacere per i motivi insomma che mi hanno spinto per rinunciare, però ne ho tanti altri, diciamo, no? Uno, ne togli uno e ne prendi altri due, ad esempio. Ma sì, sicuramente, è chiaro che insomma non è facile, se no smetterebbero tutti da un giorno all'altro, è vero. Sì. Dire che non è un piacere sarebbe un'assurdità, è un piacere, soprattutto per chi ha fumato lo sa che è un piacere. Quindi fumare. Bisogna dire sì, è vero, è un piacere, ma a provare. Senti, se non fumo divento nervoso, un altro classico. Beh, io insomma sono nervoso lo stesso, quindi anche insomma, con le sigarette senza insomma cambiava veramente poco, quindi anzi forse a me invece faceva un effetto contrario, la mia era una fumata anche un po' di nervosismo, io c'era un periodo che a mezzogiorno arrivavo a mezzogiorno sul set quando facevo i riso, insomma stavo soprattutto che facevo televisione, avevo già finito un pacchetto verso insomma mezzogiorno e mezzo avevo finito un pacchetto, quindi si rischia di aumentare la cosa. Beh sì, c'è un tipo di fumata anche un po' nervosa, appunto quelli nervosi secondo me sono più, fumano anche di più, anche peggio, insomma non godono il vizio, non lo trattano come un vizio ma diventa quasi una cosa compulsiva. Senti Filippo, se smetto ingrasso, ma tu... Guarda, questa cosa non so se ha, insomma, sicuramente non so se ci sono, si può chiedere al medico, no? Se proprio ci sono dei riferimenti medici per cui è provato che io non sono ingrassato, è vero che corro sempre, faccio sport, e io sono stato un fumatore che comunque sempre... Quante ne fumavi? Nel senso, anche quando fumavo tanto io non è che ero sedentario. Senti quindi, Filippo, ma tu quanto fumavi? Io fumavo un pacchetto e mezzo al giorno. Quindi insomma uno però, però quando ero sul set fumavo di più. Infatti io ho smesso proprio durante un film in lavorazione che mi sentivo male, cioè sentivo proprio di non reggere più il fumo, no? Si dice a volte sì. Si sente pure non reggo l'alcol, qualcuno dice. Senti, a proposito di lavorazione, tu hai appena finito una tournée teatrale che ha avuto grande successo e poi tra poco ti vedremo in un film con Isabella Ferrari. Gianmar Barsi, il film di Paolo Franchi, si chiama e la chiamano Estate, però non c'è ancora una data certa di uscita. Ma noi l'aspettiamo. Sì. Bello, bravo ed ex fumatore. Un bacio a Filippo Nigro, grazie per essere stato ciao, con noi. A voi. Grazie. Ciao, qua in studio con me abbiamo Imma Solimeno, che è una giovane giornalista. Ci ha sentito qua in silenzio per tutta la nostra puntata. Perché qua, vi chiederete voi? Perché è la vincitrice di un concorso dedicato proprio agli studenti della scuola di giornalismo dal titolo Informare è prevenire. Il suo articolo è stato selezionato dalla giuria, ha vinto, si intitola Prevenzione invitata speciale. Imma, grazie per essere con noi. Buongiorno. Chiudiamo in bellezza con te. Sì. Giovane, giovanissima, la prevenzione invitata speciale e tra i giovani dovrebbe essere invitata in modo un po' nuovo forse, perché la prevenzione con i giovani è un argomento un po' difficile da toccare, certo. Soprattutto la cessazione del fumo. Certo, perché le campagne antifumo sono tantissime, ma purtroppo non hanno tanta presa sui giovani. Il problema è che fumare spesso si traduce in un modello comportamentale per i giovani, si fuma per emulazione, per stare insieme. Quindi magari il segreto potrebbe essere fare campagne antifumo magari più efficaci, più dotate di appeal che possono appunto attrarre tantissimi giovani. I giovani devono essere prima di tutto in primo luogo consapevoli che il fumo ha delle conseguenze non solo a breve termine ma anche e soprattutto a lungo termine, quindi magari ritrovarsi tra 10 anni con dei problemi alla salute notevoli potrebbe informarsi, far conoscere questi rischi che si corrono potrebbe essere utile possibile per tutti i giovani. E dottor Boffi mi segnala che il premio è Lorenzo Perrone, l'associazione per la prevenzione delle malattie oncologiche ed oncoematologiche. Perché per fortuna ci sono queste associazioni di volontariato, come quella di cui è presidente l'amico Riccardo Perrone, che ci aiutano a noi medici per cercare di comunicare l'importanza della prevenzione. Quindi, ma potremmo dire, sarebbe bello fare un concorso, sono già stati fatti, no? Per rivolto proprio ai giovani, per provare a comunicare ai giovani fumatori, per trovare magari un modo per comunicare, per passare un po' dall'altra parte. Grazie al dottor Boffi per essere stato grazie con noi. A voi. Vi ricordo che mettiamo naturalmente l'elenco dei centri antifumo a cui potete rivolgervi se la forza di volontà non basta. Ringraziamo la bella e brava Imma Solimeno. Solimeno, hai ragione, perché sbaglio gli accenti. Buona giornata. Vincitrice di questo concorso, e intanto io come sempre vi do appuntamento a domani. Miriam Lucchini, Laura Vanossi, Carmelo Lauricella, grazie a voi anche che ci avete seguito, vi aspetto domani. Essere e benessere.